Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Ponte Radio. Ponte Radio va in onda ogni venerdì dalle 13 alle 15 ed è un progetto comunicativo, uno spazio di collegamento tra radio sorelle auto-organizzate. Questo spazio viene curato settimanalmente da Radio Wombat Firenze, da Radio Onda Rossa, da Radio Eustachio di Verona, da Radio Blackout, Radio Neanderthal di Napoli, da Radio Spore e da Radio Quark. E questa puntata viene curata da Radio Quar e avrà come tema la fragilità dei territori. La voce che sentite è quella di Salvatore e l'altra voce che sentirete a breve è quella di Raffaele che saluto. Ciao Raff, questa prima parte la dedicheremo ad un territorio martoriato e complesso come quello della città di Taranto. E per farlo abbiamo come ospite qui a Ponte Radio Raffaele Cataldi, ex operaio dell'Ilva, ex calciatore, autore del libro Malesangue, storia di un operaio dell'Ilva di Taranto. Ciao Raffaele. Ciao, buonasera a tutti e a tutti e grazie per l'invito. Grazie a te per la disponibilità. Senti, partiamo proprio con una prima domanda. Quali sono state le principali sentenze della magistratura italiana relativa all'inquinamento di Taranto, reati contestati, condanne, archiviazioni, misure cautelari e come hanno inciso sulle attività produttive e sui piani di bonifica? Eh beh, una domanda abbastanza complessa. Allora, questa storia va avanti a Taranto per la questione Ilva, va avanti dal 2012. Il 26 luglio del 2012 la magistratura decreta che lo stabilimento Ilva di Taranto, la reazione dello stabilimento dell'Ilva di Taranto, è nociva per la salute dei cittadini. Ci doveva essere un sequestro che in realtà non c'è mai stato perché l'Ilva va avanti per decreto dal 2012. C'è stato un sequestro con facoltà d'uso, non si è mai smesso di produrre. Ci sono stati una serie di arresti dalla famiglia Riva a una parte dei fiduciari dello stabilimento. I fiduciari erano, diciamo, erano personaggi che la famiglia Riva aveva messo per gestire i vari impianti, diciamo un governo ombra per far capire meglio. Quindi era gente che magari manco risultava sugli organigrammi della fabbrica. Sono stati arrestati capi reparto, sono stati arrestati politici, tanti di quei politici che negli anni da destra a sinistra hanno preso soldi dei Riva per finanziare le loro campagne elettorali. Ci sono stati anni e anni, anni di condanne con il processo ambiente svenduto. Però poi tutto d'un colpo è come se abbiamo scherzato, perché si sono accorti che dopo il primo grado, dove ci sono state, ripeto, tutte queste condanne, si sono accorti che c'erano dei vizi di forma e il processo deve ricominciare da zero e riandare via da Taranto. Infatti è stato spostato a Potenza, quindi si deve iniziare tutto da capo. Parecchi di quelli di politici sono scaduti i termini e quindi hanno festeggiato perché sono scaduti anche, tra virgolette, i loro reati. E Taranto comunque continua a morire, sia fisicamente che per quel che riguarda il popolo tarantino, che economicamente, perché questa situazione non ha fatto altro che distruggere l'economia della città, che non è solo l'economia degli operai, ma è l'economia di una città intera, che dipende sempre da questa Tutte queste bugie che in sostanza ti racconta la politica, si raccontano i sindacati, che Taranto dipende dall'Ilva, Taranto senza Ilva muore. Questa situazione non fa altro che alimentare malessere, non fa altro che alimentare mancanza veramente di una visione diversa della città. E tanto è vero che i giovani che hanno una visione diversa scappano da Taranto. Quindi una città che diventa sempre più vecchia, una città che diventa sempre più con meno prospettiva, nonostante sia una delle più belle città d'Italia. Questo è. Purtroppo noi viviamo nel terrore quotidiano, perché qua ci ammaliamo giornalmente. Io ho perso mia madre la settimana scorsa, il 24 agosto, dopo aver scoperto il 12 luglio che si era ammalata di tumore. In 12 giorni mia madre è morta. Quindi non si vede nessuno spiraglio. È una lotta contro i muri di gomma, perché abbiamo tutti contro. Non c'è una presa di posizione dei partiti che dovrebbero essere più vicini al popolo, anzi ragionano come governo, ra ragionano peggio del governo, prestano il fianco al governo, e i sindacati peggio di peggio, che inventano decarbonizzazioni e ambientalizzazioni sapendo che stanno raccontando parolette alla nazione intera. Senti Raffaele, quando si iniziò a scoprire i danni, diciamo, ambientali e ecologici che aveva fatto l'Ilva, l'occhio andò subito. Ti correggo, che continuo a fare l'Ilva. Sì, che continua a fare l'Ilva, Non è mai cambiato. l'occhio andò subito sulla riduzione delle emissioni e poi soprattutto su una certa prevenzione. Quali erano, diciamo, i parametri che all'epoca sia l'ARPA Puglia che il Ministero della Transizione Ecologica volevano arrivare? E in base a queste tabelle ci sono stati poi dei risultati? Allora, io nello specifico il numero non te lo so dire, però ti so dire che hanno alzato i valori rispetto ai limiti che erano previsti. Quindi hanno reso tutto legale, alzando i valori. In questi ultimi anni i valori sono scesi perché è scesa la produzione, ma non perché è cambiato il modo di produrre. Noi stiamo lavorando con un altoforno. A Taranto ci sono tre altoforni che in teoria dovrebbero essere in marcia, ma che non lo sono, perché APO1 è fermo dopo l'incidente che c'è stato il 7 maggio, che ha rischiato di far saltare all'aria la città. APO2 è fermo in manutenzione, e APO4 oggi ad esempio è stato fermo per problemi di sicurezza. La situazione è questa, la situazione è che quest'anno c'è stata una produzione che è arrivata a 2 milioni di tonnellate. Rispetto a quando c'era la famiglia Riva, quindi i limiti, quando sono stati alzati i limiti, quando c'era un inquinamento maggiore, che si è arrivato pure a fare il record di produzione con 12 milioni di tonnellate. Questa è la differenza, che oggi si produce di meno perché gli impianti sono a pezzi. E quindi si è abbassato anche il, il sono abbassati anche i livelli di inquinamento. Ma l'inquinamento è sempre, quando iniziano a produrre, noi lo sentiamo e lo vediamo. La situazione non è per niente migliorata, anzi, è peggiorata perché non ci sono state le manutenzioni agli impianti. Io ripeto, no, con precisione non mi ricordo ora i livelli quali erano, non voglio dire stupidaggine, anche perché, ripeto, noi non ci basiamo sui livelli di inquinamento, noi ci basiamo sulle morti che abbiamo, perché questi discorsi vanno troppo sul tecnico ed è facile superarli, nel senso che negli anni hanno creato tante di quelle porcate alzando i limiti, rendendo tutto legale. E a noi non ci sta bene. A noi non ci sta bene questa cosa. Perché noi non abbiamo bisogno di dispense, noi i danni li vediamo su noi stessi. E quello che diciamo noi è che questa fabbrica non deve fare più neanche un morto, non deve fare più neanche un malato. Questi sono i nostri limiti, questi sono i livelli che non bisogna superare. Altrimenti vogliamo sapere chi dei governi, chi dei sindacati si offre volontario a fare il singolo che si deve ammalare per colpa dello stabile. E quando sentiamo noi parlare che ci dicono, ma si può ridurre l'inquinamento? No. Non si deve parlare di riduzione di inquinamento, si deve parlare di impatto zero, altrimenti chi dice che si deve ridurre? Viene lui a lavorare alle batterie, viene lui ad abitare a Taranto, viene lui ad abitare al quartiere Tamburi, viene lui a lavorare sulle collinette ecologiche, di questo dobbiamo parlare. Senti, Raffaele, ma qual è la, se c'è una stima della perdita di aspettativa di vita per i cittadini e le cittadine residenti a Taranto, attribuibile alle esposizioni ambientali o alle, diciamo, quindi all'inquinamento, se c'è qualcosa di documentato? C'è lo studio Sentieri, poi c'è il registro dei tumori, è tutto documentato. E poi ripeto, noi ce l'abbiamo in famiglia, non c'è bisogno di andare a studiare, noi ce l'abbiamo nelle nostre famiglie. I medici, quando noi portiamo i nostri figli, i nostri parenti a casa di Danze della Speranza, li portiamo al nord, perché magari proviamo strutture che sono migliori delle nostre strutture. Quello che si dicono è, ma che volete? Voi venite da Taranto? A Taranto c'avete l'Ilva, questo tumore deriva da questo tipo di inquinamento. Ci sono certificazioni che attestano che è per colpa di determinati agenti inquinanti per cui le persone si ammalano. Non è tutto campanilare, non è che è invenzione delle persone perché devono dire che è colpa dell'Ilva. E quanti operai si ammalano? Guarda, ti porto il mio caso. Io ho lavorato al tubo fiso e quindi io mi sono ammalato di tumore alla tiroide. Io oggi io sono in causa e devo dimostrare come il tumore alla tiroide ti prende se sei a contatto con i raggi ionizzanti. Allora, dove stavo io c'erano queste macchine che facevano i raggi ai tubi e quindi si è a contatto con con queste diciamo, emissioni. Io devo andare a dimostrare dopo 20 anni che per colpa di questa macchina che mi sono ammalato, quando dovrebbe essere al contrario, sono loro che devono dimostrare che io non mi ammalo perché sono a contatto con la macchina. Questo è. Non, io insisto sul fatto che non è che c'è bisogno di fare studi scientifici. La realtà è quella che viviamo noi, la realtà è quella che noi moriamo tutti i giorni. Ecco, comunque ci sono. Questi studi ci sono, i medici ci sono dottori che queste cose le rendono pubbliche, ci sono dottori che te le dicono, però poi non hanno il coraggio di esporsi come lo facciamo noi. Noi operai se vogliamo. E poi c'è chi decide che deve studiare, quindi il suo sapere lo mette a disposizione dei più debili, e c'è chi il suo sapere lo mette a disposizione dei soldi. E noi combattiamo, siamo per strada, come siamo ora per strada, stasera, per la Palestina, per quello che succede, che sta succedendo in Senti Raffaele, in questi anni, cioè, ci sono state da parte degli organismi governativi o anche, diciamo, delle delibere comunali, piani regionali che volevano bilanciare questo rapporto tra lavoro e salute pubblica? E poi, se ci sono state delle misure attuate, delle misure alternative che hanno comunque cercato di tamponare quella che era già la, cioè che era la, le restrizioni economiche dovute comunque a una chiusura di un'industria. Allora, io ti dico la mia situazione. Io sono in cassa integrazione dal 2018. Il governo non ha fatto altro, i vari governi non hanno fatto altro che fare decreti perché sono stati 18 decreti che hanno fatto per continuare la produzione come adesso. Non c'è stato niente perché tutti sono a favore della produzione, perché non hanno il coraggio di dire le cose come stanno. Non hanno il coraggio, stanno aspettando che questa fabbrica si chiuda da sola, perché il mercato la sta chiudendo, perché sta cadendo a pezzi, perché essendo un ciclo integrale ha un tempo di vita di 70 anni e li abbiamo superati i 70 anni. E quindi non è stato fatto niente se non la cassa integrazione per i lavoratori. Ma all'interno dello stabilimento non è stato fatto niente, a meno che non vengano fatte delle pitturazioni, a meno che non si decantano filtri o cose varie che alla fine non servono a niente. Ma la decarbonizzazione stessa, che tutti quanti si vogliono dire che è la risoluzione dei problemi d'Italia, non è altro che una bufala, perché si usa il gas, perché si continua ad inquinare, è inquinante come il ciclo integrale che stiamo usando ora. Sarebbe costosa e non si sa chi dovrebbe mettere i soldi. Non ci sono state soluzioni per il niente. L'unica, diciamo, ammortizzatore sociale che viene usato è quello della cassa integrazione. Ripeto, io sono in cassa integrazione dal 2018. Dovevamo essere reintegrati dal 2023 al 2025, non è stato fatto. A settembre è scaduta anche quell'accordo del 2018 e nessuno parla dei lavoratori di amministrazione straordinaria, perché di quelli che parlano ora sono quelli di Acciaierie d'Italia, che non si sa che fine faranno. Quindi non è stato fatto niente, e io ho detto vari, è difficile che faranno qualcosa. Senti, Raffaele, qual è stata diciamo, la risposta delle aziende coinvolte, ad esempio piani di investimento, studi di impatto ambientale, comunicazione pubblica, fino a che punto le loro misure sono state... Faccio una domanda io, quando mi dici di aziende coinvolte, a chi ti riferisci? Perché qua l'unico che ha investito, tra virgolette, e non ha investito, si è solo preso la fetta di mercato che aveva di Taranto, è stato Mitta, che non ha mai pagato il fitto d'azienda, anzi ha preso soldi dal governo italiano. Nessuno ha investito. A livello comunicativo, hanno sempre detto che stavano aggiustando l'impianto, e non è vero, ma nessuno ha investito. Qua l'unico privato che è entrato è stato Mitta. Poi lo Stato c'è sempre stato all'interno, perché ci sono i commissari che gestiscono lo stabilimento. Ed erano l'Ilva, ai commissari attualmente, ai commissari che gestiscono l'Ilva. L'unico, ripeto, l'unico privato è stato Mitta, che ha fatto un tetto d'azienda e che non ha mai messo una lira, anzi ha avuto i soldi dal governo Conte. No, non c'è stato nessun investimento, non c'è stato niente. Quelli sono gli impianti, altrimenti non cadevano a pezzi e non stavamo in queste condizioni. Con i Riva, paradossalmente, con i Riva, un po' di manutenzione si faceva, che poi non hanno rispettato le regole perché hanno preferito pagare i politici. Quindi, che ne so, invece di bonificare l'amianto l'hanno sotterrato, invece di rodio l'hanno sotterrato. Questo sono tutte cose che la magistratura ha verificato, potete trovare in ambiente svenduto, l'altro privato, Mitra, non ha fatto nessun investimento. Anzi, e se chiunque verrà non farà nessun investimento, prenderà solo soldi dallo Stato. Ma Raffaele, scusa, ma esisteva o esiste proprio un piano di qualificazione della fabbrica, diciamo in una fabbrica a emissioni zero? Ma non esiste, no, non c'è mai stato un piano industriale, non c'è mai stato un piano ambientale, non esiste. Ma allora perché noi diciamo, cerchiamo di sbugiardare sulla, quando parlano di decarbonizzazione? Questa è una fabbrica a ciclo integrale, è proprio un modo diverso di produzione. Non esiste, come non esiste, come lo stesso inquinante la decarbonizzazione, tu, per avere un impatto zero, come fai ad avere un impatto zero? Non ce l'hai con le tecniche attuali, eh? Quando parlano di idrogeno, attualmente non esiste l'idrogeno in metallurgia. O se ci sono degli esperimenti, sono esperimenti che sono fatti in Svezia, non certamente in Italia, e poi i livelli di produzione, dove deve dire. Il problema maggiore di Taranto, dell'Ilva di Taranto, è il personale. Ci sono 8.500 lavoratori che lo Stato non sa, non sa come fare. E quindi. Altrimenti loro la fabbrica l'avrebbero chiusa già dal 2012. Loro non sanno come gestire questi numeri, questo numero alto di persone. Che tra loro, tra Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione siamo 7 di 15. Noi gli abbiamo dato la soluzione con Piano Taranto, dicendo che tutto questo personale deve essere impiegato per la questione delle bonifiche e quindi si devono formare a fare le bonifiche. Però evidentemente la bonifica non piace, questo termine non piace, si vogliono lasciare il mostro, si vogliono lasciare il mostro così com'è, perché il timore nostro è che noi sappiamo che questa fabbrica si chiuderà da sola e speriamo che non succeda un incidente grave come la ThyssenKrupp e quindi che in questo modo si accelererebbe tutto. Quindi noi questa cosa non la vogliamo. Il timore maggiore nostro è che questi si lasciano il morto in casa perché la fabbrica occupa due volte e mezza la città di Taranto. E quindi sarebbe un territorio enorme che sarebbe abbandonato al suo destino. Invece noi diciamo no, con gli operai della fabbrica più quelli dell'indotto. Più altri, si potrebbe fare una politica che addirittura, secondo lo studio di Confindustria, durerebbe 30 anni e impiegherebbe 30.000 persone. Diciamo che l'unico piano industriale è stato fatto dal Comitato di Cittadini Lavoratori Liberi e Pensanti con Piano Taranto. E non l'ho fatto io, eh. Abbiamo ripreso uno studio di Confindustria e poi ci siamo avvalsi della professionalità di alcuni. Professori universitari, tra cui la dottoressa Barca, Emanuele Leonardi, e altri professori universitari. Piano Taranto, ricercare ovunque. Infatti io volevo chiedere, visto poi tutti i problemi legati all'Ilva e quindi solo la parte economica, ma anche soprattutto la parte inquinante, quali movimenti e comitati cittadini sono nati a seguito di tutte queste controversie? E poi soprattutto, uno l'hai detto, un metodo è quello che avete pensato una riqualificazione ed altre, quali sono stati gli altri invece strumenti di lotta che hanno adottato? Allora, a Taranto ci sono quasi 200 associazioni, però Taranto è una città particolare. Noi in questi anni ne abbiamo visti tutti i colori. Sono nate associazioni per distruggere il fronte di lotta, quindi associazioni che improvvisamente hanno affiancato i partiti politici, quindi ora ad esempio abbiamo associazioni che sono in consiglio comunale e si sono candidati col PD. Il PD ha fatto la maggior parte dei decreti insieme ai vari governi che ci sono stati. Il PD è per la decarbonizzazione con l'uso ancora di questi altoforni. Ci sono i Verdi che dicono che vogliono agire, però sono al governo cittadino col PD. Ci sono, è diciamo, un laboratorio. Dove è difficile veramente fare la lotta. Noi siamo nati, diciamo, il Comitato di Cittadini e Lavoratori è l'unica associazione a Taranto che è all'interno degli operai. Quindi gli operai della fabbrica che vogliono la chiusura dello stabilimento perché la fabbrica la conoscono. Ecco perché magari poi andiamo in conflitto con tanti studiosi che si avvalgono dei dati, però non conoscono gli impianti e poi raccontano un sacco di stronzate, scusate il termine. Quando poi gli dici, vabbè, su carta, vabbè, mi fai vedere dove metteresti un forno, mi fai vedere dove metteresti un forno per il preridotto, mi fai, qua si sono inventati pure l'arretramento della fabbrica. Ci hanno detto che arretreranno la fabbrica, la allontaneranno dalla città. Cosa che non stanno né in cielo né in terra. Noi, come comitato, la nostra caratteristica è quella che andiamo a prendere i microfoni, abbiamo fatto occupazione, abbiamo fatto oltre l'occupazione della fabbrica. Noi non siamo un sindacato, non siamo un partito. In Ilva non c'è mai stato uno sciopero all'interno, se non quello organizzato dal cittadino lavoratore libero e pensante. Noi abbiamo portato 5.000 persone in corteo all'interno dello stabilimento. In Ilva non si manifesta, i sindacati non fanno mai sciopero all'interno. Per il contratto nazionale che c'è stato, per l'ultimo contratto nazionale, vedetevi le percentuali di scioperanti dall'interno dello stabilimento del MIT, che è bassissimo. Taranto è questa, ci sono 200 associazioni, però poi ognuno va per i fatti suoi. Anche se ti devo dire che ultimamente con un gruppo di associazioni si sta lavorando tutti insieme perché non c'è solo la situazione Ilva, perché a Taranto ci vogliono mettere una discarica al quartiere Paolo VI, ci vogliono mettere il dissalatore. E la vera battaglia che stiamo combattendo non è più tanto lo stabilimento, ma è una nave rigassificatrice che ci vogliono mettere mascherando che deve portare gas ai forni elettrici. Ripeto, i forni elettrici costano tantissimo e i soldi non ci sono. Quindi questa nave dovrebbe servire invece per portare gas e quindi acquistare gas dall'America. C'è un fattore enorme dietro questa città. E quindi si fa quel che possiamo, siamo sempre per strada, siamo sempre a parlare con le persone, siamo sempre nei quartieri. E quando ci capita che facciamo qualche eruzione tipo quella che abbiamo fatto al comune non meno di un mese fa, sono proprio i partiti di sinistra che si definiscono scimmie urlatrici, si definiscono terroristi, si definiscono violenti. Il sindaco addirittura ha dato le dimissioni perché l'abbiamo contestato, perché abbiamo gridato un pochettino, abbiamo alzato la voce un pochettino, quindi ha dato le dimissioni perché non c'è democrazia. Qui si sta con la bocca tutti con questo termine, la democrazia, però questa mancanza di democrazia siamo proprio noi cittadini a subirlo, perché lo Stato non ci protegge, perché si nasconde tutto dietro la produzione. Il primo cittadino dovrebbe essere responsabile della salute dei propri cittadini. È lui che ci difende. È lui che ci ammaliamo e che portiamo i nostri parenti al cimitero quasi ogni settimana. Chi ci difende? Se non abbiamo un politico che prenda le parti dei cittadini. Raffaele, un'altra cosa, qual è stato Io non so se che sto rispondendo direttamente alle domande, ma cioè, qua la situazione è complessa e no, no, no, quindi. ma quello lo sappiamo, cioè per carità, quello lo sappiamo benissimo. Purtroppo, cioè, qua noi abbiamo il cavallo di Troia, abbiamo avuto il cavallo di Troia fino a quando poi non abbiamo scoperto queste associazioni che hanno lavorato ai fianchi, quindi hanno distrutto in fronte della lotta per poi andarsi a prendere due poltrone che non portano niente, alla fine hanno portato il missile a loro. Noi da operai siamo per la chiusura dello stabilimento, quindi abbiamo perso il posto di lavoro perché quando uno lotta contro la tua azienda è normale che il padrone, no? Ti deve mettere a casa. E poi c'è gente che si va a sedere e quindi ha avuto un posto di lavoro, diciamo così. E ora non si parla più di chiusura, ma di decarbonizzazione. Dimmi, scusami, ti ho interrotto, stai facendo una domanda. No, ma non ti preoccupare. No, ti volevo chiedere proprio qual è stato il ruolo dei media e dell'informazione pubblica nel costruire e modellare il dibattito su salute contro il lavoro a Taranto e come ha influito, se ha influito sul processo decisionale politico. Per ciò che riguarda l'Ilva e anche giudiziario, ovviamente. Allora, non tutti, ma la maggior parte dei giornalisti, sia di Taranto che a livello nazionale, si limitano a pubblicare documenti stampa girati dall'azienda o dal politicante di turno o dai sindacati. Sono pochi giornalisti e si possono contare una mano di una dita, possiamo parlare di Nadia Toffa, possiamo parlare di Valentina Petrini, possiamo parlare di qualche altro che hanno fatto veramente inchieste e hanno detto le cose come stanno. Perché se io sono un giornalista e il politico di turno mi dice stiamo ambientalizzando lo stabilimento, allora mi chiedo: ma che significa ambientalizzare? Non esiste manco il vocabolario questa parola. Oppure se mi dice stiamo decarbonizzando, stiamo facendo i forni e poi non gli dico che guarda che l'Ilva è un sito integrale, dove lo vai a posizionare un forno? Dove fa devi fare domande che scomode? Allora è certo che la stampa è drogata, ma se vai a vedere anche nel processo ambientale ci sono giornalisti coinvolti, redazioni coinvolte. Noi di fronte abbiamo mura enorme e quindi è complicato. Guarda, noi per ovviare a questa situazione, quando si chiamano per fare le interviste, quando si chiamavano per fare le interviste e ci dicevano, ma voi dovete parlare della cassa integrazione, del lavoro che non avete. E noi dicevamo, no, noi dobbiamo parlare dei morti, dobbiamo parlare delle persone che si ammalano, dobbiamo parlare degli impianti che uccidono le persone, dobbiamo parlare di quello che è stato sotterrato. Qualche intervista saltava, poi a un certo punto uscivano interviste tagliate e quindi costruite ad arte. Abbiamo imparato che ogni volta che facciamo un'intervista viene sempre un compagno insieme a noi, ci riprendiamo e quindi se l'intervista è modificata, se il concetto dell'intervista è modificato, noi facciamo la smentita, usciamo con quello che il nostro concetto. Purtroppo siamo attacchi su tutti i fronti. Sono fuoco le persone libere. Grazie a voi, non perché se fosse parlato con voi, ma però so che l'altra volta è andata integrale, quindi so che anche questa volta ci sarà la stessa accusa, quindi so che siete liberi, però non tutti siamo così. Io, il Senti. concetto è lo stesso. Se io ho rischiato il posto di lavoro, perché un'altra persona che parla di Ilva deve drogare la verità. Questo è il concetto. Senti, Raffaele, avevi, cioè prima citando il comitato di i liberi e pensanti, Libri e pensa, è complicato, liberi no? e pensanti, cioè avevi detto che comunque loro, cioè voi, No, avevate lui. studiato un piano alternativo comunque per la riconversione dell'Ilva. Volevo sapere. C'è uno studio economico proprio di fattibilità su questa cosa per Certo, basta leggere trasformare. che Lori Smith ha ripreso lo studio che abbiamo fatto lui. E ti dico da dove è partito questo studio. No, no, scusa, finisco soltanto per dire, scusami, finisco solo a dire, cioè, se ci spieghi che cosa, come, qual è l'idea di riconversione? L'idea di riconversione è semplicissima. Usare, no, è brutto il termine, usare. ma dare lavoro agli operai che da quella fabbrica escono da quella fabbrica. Bisogna formarli. Io sono in cassa integrazione dal 2018, non c'è stata nessuna formazione se non dei corsi online. Tu mi devi formare perché i soldi ci sono. Li abbiamo fornito, gli abbiamo detto dove andare a prendere i soldi a livello europeo. Ci sono i finanziamenti per gli operai che provengono dalle aziende che chiudono per la questione dell'inquilino. Quindi i finanziamenti per formare gli operai di tutti. Si devono formare perché, ripeto, l'Ilva è dove che mezza Taranto. E prima di bonificarla, questa azienda va decontaminata, va smantellata. Perché sapete che significa avere impianti che stanno in 2 volte e mezza della città di Taranto? E quanti anni ci vogliono per smantellare quell'impianto? In questo consiste. E poi dopo fare poli di ricerca, poi dopo fare tutto quello che vogliamo. Però deve partire tutto dalla chiusura dello stabilimento e dalla bonifica di tutta l'area di Taranto, perché poi non si tratta solo dello stabilimento, ma si tratta di tutta l'area intorno. Noi abbiamo le collinette ecologiche, che in teoria sono state costruite perché dovevano limitare le emissioni che provenivano dalla fabbrica verso la città. Ma lo sapete che sotto queste collinette ecologiche è stato tombato di tutto? Sono state tombate le scorie, che di ecologico non avevano niente. E noi, quando eravamo piccoli, siccome sotto le montagnette c'era un campo, uno dei pochi campi sportivi di Taranto, facevamo allenamento e ci facevano fare forza su queste montagnette. Di quello si tratta, di formare gli operai per fare la bonifica. E poi non ci devono venire a dire: ma farete la fine di Bagnoli? E noi gli rispondiamo: prima di tutto, Bagnoli, se c'è stato un fallimento, e i sindacati e i partiti politici dicono questa cosa, questo è il fallimento della politica italiana, se c'è stato un fallimento. Ma a Genova come è andata a finire? Piano Taranto, il piano di cui stiamo parlando, nasce proprio dallo studio fatto da noi operai rispetto alla situazione di Genova, dove c'è stato un accordo di programma che ha portato in seguito alla chiusura dello stabilimento di Genova, della parte dell'area calda, a caldo. Quella parte di area a caldo è stata portata a Taranto, perché a Genova non era compatibile con la termodinamica. A Taranto è diventata compatibile, perché a Taranto siamo dei robot. Ci possiamo permettere l'inquinamento pure delle altre città. Quindi è nato da questo studio. Abbiamo detto: ma come hanno fatto a Genova? Come mai hanno tirato la realtà? Perché hanno chiuso? Come gli operai, che fine hanno fatto? Alcune aree che l'Ilva ha dovuto restituire a Genova, al comune di Genova, come mai le ha restituite? È nato tutto da questo studio. E poi è normale che a livello economico ci siamo rivolti a professori universitari, perché non è l'operaio, noi possiamo studiare, ma tecnicamente ci deve essere qualcuno che, quando poi il politicante di turno dice: ma tu sei l'operaio, mi dici dove hai letto questa cosa, mi dici dove hai preso quest'altro documento. Ebbè, poi si devono confrontare con chi ha fatto ricerca a livello universitario. Però la sostanza è che i lavoratori continuano a lavorare, guarda le bonifiche, è che è lo Stato che si deve dei lavoratori e di tutti i costi. Perché a Taranto il concetto di chi la paga non esiste, in riva se ne do andare, ho portato i soldi, metta le benunze, ha fatto i commessi suoi e se n'è andato. Quindi ai miei cittadini che li tutti. Io, ma lo Stato si è fatto sempre garante di questi signori. Beh, lo Stato deve intervenire, deve tutelare sia i lavoratori che i cittadini. Senti, Raffaele, ti facciamo un'ultima domanda. In che modo la popolazione tarantina percepisce oggi quel conflitto esistente tra lavoro e salute? E che ruolo dovrebbe avere la cittadinanza nella politica ambientale della città? Prima di tutto diciamo che di Tarantina, di Taranto all'Ilva, ne lavorano una percentuale bassissima, perché all'Ilva di Taranto lavora tutta la Puglia, e dalla Basilicata, dalla Campania. Quindi questa Ah. favoletta dell'Ilva, che i cittadini di Taranto dipende dall'Ilva, è una favoletta che si raccontano come quando si dicono che il quartiere Tamburi è nato dopo lo stabilimento. In realtà questo conflitto non c'è. Tutti questi anni hanno portato solo allo sfinimento della lotta dei cittadini. La gente è stanca, non vuole sentire manco più parlare di questa situazione. Taranto deve avere una visione diversa. Taranto ha bisogno dei giovani, che purtroppo questa situazione ha fatto andare via. Tutti i ragazzi vanno via da Taranto, perché non è una città vivibile, perché si nasconde tutto dietro l'Ilva, ma quasi è proprio un volere politico. Perché questa città sia ghettizzata, perché questa città non sia raggiungibile dal resto del mondo, perché non abbiamo un aeroporto, non abbiamo una stazione, non, cioè abbiamo una stazione ma arrivano pochi treni. L'aeroporto più vicino è a Brindisi o a Bari, l'autostrada finisce a Mazzavra e non arriva a Taranto. C'è proprio un disegno, perché dobbiamo sopravvivere e vivere alla giornata. E quindi deve avere bisogno di quel posto di lavoro. Quando voi sentite parlare dell'indotto, l'indotto non è altro che le pulizie industriali che fanno fare a ragazzi con contratti di un mese, 2 mesi, 15 giorni. Quello è. E la visione del cittadino di Taranto è diversa. La visione della città di Taranto è una visione di una città che è bella, una città che non può essere solo turistica. Una città che ha bisogno di rinascere, ha bisogno di rinascere. Basta poco per far felicità. Noi con l'1 maggio ci accorgiamo che basta organizzare solo un evento per rendere una città felice. Quindi basterebbe una visione diversa della città. Fele, grazie per aver. No, Grazie a voi, e scusate se ogni tanto sono uscito fuori prima, però. no, no, no, no, non ti preoccupare proprio, anzi, siamo veramente. Ti ringraziamo veramente tanto per aver. I dati che vi servono io ve li posso girare, però ripeto, non è più una questione di dati, qua è una questione reale, Certo. qua è una questione di pelle. C'è questa cosa dei dati, ce la propinano sempre. I politici perché ti vogliono mettere in difficoltà, ma quando a me mi vengono a dire vabbè, ma voi quanti siete del comitato? Ma c'è domande, che domanda è? Cioè, qua non siamo un partito politico. Allora, le tessere dei sindacati, no, hanno 7.000 tessere, ma se poi a scioperare sono 50 persone, quelle 7.000 tessere a che servono? A che servono 7.000 tessere vuote? Che è quello che si c'è da fare. Cioè, questo è il ragionamento. Va bene. Va Raffaele, bene. grazie, grazie Grazie, ancora, Raffaele. dai, ti mandiamo un abbraccio, ti mandiamo un abbraccio. Un abbraccio. Ciao, Ciao, buonasera a grazie. tutti. Ciao Raffaele. Ciao, ciao.